Cantine di Franciacorta. Bentrovati da Capriolo, a due passi dal Lago d'Iseo. Siamo la cantina Lantieri de Paratico, dell'omonima famiglia, che fa vino dalla fine del 1400. Azienda a conduzione familiare da 150.000 bottiglie l'anno, di cui l'80% bollicine, da 18 ettari di vigneti. Vigne favorite da un microclima specifico che attribuisce ai vini toni particolari, come ci spiega Fabio Lantieri de Paratico. Questa zona è una zona che dal punto di vista microclimatico è sicuramente fortunata, in quanto godiamo dei venti che discendono dalle Alpi e che si rinfrescano passando poi sul Sebino. Abbiamo notti fresche, questo ci permette di fare vini con buona bevibilità, con piacevolezza e con la possibilità peraltro di fare vini anche di grande durata, di grande struttura, questo grazie appunto ai livelli di acidità che in questa zona si mantengono sempre molto interessanti. È tutto, alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.